in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, buon primo sabato di novembre, benvenuti alla nostra rassegna stampa internazionale. Iniziamo questa settimana da un articolo apparso sull'Economist, il settimanale britannico. Credo lo sappiate tutti, nonostante il titolo, che letteralmente significa l'economista, è proprio un magazine che si occupa di tutto, di società, di finanza, di politica, di economia, di scienza. E questo articolo, che è uno dei cosiddetti leaders, cioè i 4-5 articoli principali della primissima sezione e anche tra quelli richiamati in copertina, si intitola Sex and Power, sesso e potere. È molto interessante perché parte dal caso Weinstein, di cui ormai tutti abbiamo sentito parlare, questo forse il più importante produttore di cinematografico americano, era il re della Miramax. Ma soprattutto sappiamo appunto, contiamo ogni giorno le denunce che vengono fatte, anche che risalgono a molti anni fa, di donne, ragazze, giovani attrici o meno giovani attrici che sono state in qualche modo molestate sessualmente da lui. E questo ha un po' scoperchiato il tema delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro, molto più in generale. Secondo appunto l'Economist sono ancora molto diffuse, e la conclusione dell'Economist, che tra l'altro vi assicuro in una paginetta secondo me fa tutte le considerazioni e i ragionamenti che ci sono da fare su questo tema, con una chiarezza esemplare. Il paragrafo finale, che si intitola Creare una zona senza dinosauri, perché è un po' sicuramente una cosa che appartiene molto alla cultura del lavoro e non solo, della cultura dei rapporti tra sessi del passato, questa dei commenti pesanti e delle molestie sessuali di vario grado e vario genere. E l'Economist conclude occorre che, esattamente come i commenti omofobici o razzisti sono ormai completamente stigmatizzati sui posti di lavoro, sui luoghi di lavoro, da chi li fa, da chi li subisce, dalle varie scale della gerarchia, deve succedere esattamente la stessa cosa con i commenti sessisti. È un ottimo punto di partenza per smantellare questo rischio di molestie sessuali ai danni soprattutto delle donne, ma non solo. Passiamo a Vox Europe invece, perché sapete io lo consulto sempre, questo bel sito www.voxeurope.eu, che raccoglie articoli che riguardano, come dice il nome stesso, soprattutto l'Europa, ma che sono anche sempre interessanti, perché anche noi forse siamo ancora abituati a vedere l'Europa come un piccolo club, e su questo sito ci si rende conto che appunto siamo quasi 30 paesi con tante realtà diverse che devono in qualche modo convivere sotto questo cappello politico dell'Unione Europea. E allora in questo articolo si parla soprattutto dell'Erasmus e anche della mobilità oltre l'Erasmus. L'Erasmus, questo bellissimo programma di scambio tra studenti, nato come scambio tra studenti di università all'interno dell'Unione Europea, che però quasi in molti paesi è già stato esteso anche ad altre fasi dell'istruzione. E pensate, racconta Vox Europe con un articolo di Lorenzo Ferrari e Marzia Bona dell'Osservatorio Balcani e Caucaso della Transeuropa, che ha sede a Rovereto, che in Europa sono quasi 700.000 gli studenti iscritti all'università in un paese diverso dal loro, non per trascorrervi dei periodi di scambio di qualche mese, ma per svolgervi interi corsi di laurea o di dottorato. Tra l'altro un tema interessante è che la maggior parte di questi 700.000 si trovano in questo momento nel Regno Unito, ed è tutto da vedere come la Brexit inciderà su questo aspetto. Ma ci sono anche paesi come l'Austria, la Svizzera, la Danimarca, in particolare perché offrono una grande quantità di corsi in inglese che attirano studenti. E il tema ora è appunto, visto che ormai noi i paesi fondatori e poi quelli che si sono uniti negli anni immediatamente successivi alla creazione dell'allora Comunità Economica Europea e ora Unione Europea, negli altri paesi, quindi soprattutto quelli dell'Est Europa, come si moduleranno la seconda giovinezza, potremmo chiamarla così, dell'Erasmus. A proposito di Unione Europea, Brexit, spinte indipendentiste, vi segnalo, tra l'altro se ne è parlato anche qui a Radio 24, che gli ultimi sondaggi che si sono svolti in Spagna vengono riportati da molti quotidiani, tra i quali El País, danno i partiti indipendentisti della Catalogna, che sono tre, intorno al 45% dei voti. È una percentuale più alta che sta salendo e vedremo che cosa succederà da qui al 21 dicembre, il giorno in cui sono state convocate le elezioni. Sono percentuali appunto da sondaggio, quindi è un 45% abbastanza pericoloso se ci pensate, perché se dovesse salire davvero la questione dell'indipendenza, probabilmente soprattutto per come è stata gestita dal governo di Madrid, potrebbe davvero sfociare in un voto per l'addio della Catalogna alla Spagna, che anche qui sappiamo che è facile a dirsi, molto più difficile a farsi, perché se pensate che addirittura il famoso articolo 155, siccome non è mai stato applicato, non si sa nemmeno come applicarlo e non c'è una legge promulgata per applicarlo, vi dà l'idea di quanto imprevista e probabilmente di quanta impreparazione ci sia stato nell'affrontare l'emergenza catalana. Quindi quanto imprevista sia stata e però anche quanta impreparazione ci sia stata nell'affrontarla. A proposito di, abbiamo citato di striscio il problema del razzismo, dei commenti razzisti ancora diffusissimi, così come purtroppo sono quelli omofobi, non naturalmente solo sui luoghi di lavoro, anzi forse sui luoghi di lavoro, come scriveva l'Economist, c'è un po' più di autocensura e censura, o forse semplicemente di consapevolezza, che quindi non viene nemmeno di fare questi commenti più che trattenersi perché sono vietati. A proposito di razzismo, è molto interessante l'inchiesta che ha fatto Financial Times e che poi è stata pubblicata da Internazionale su quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Il titolo in questo caso è Giochi di potere e Neil Manchi ci racconta che il numero di atleti statunitensi che protestano contro il razzismo sta crescendo, e questo anche perché oggi molti sportivi sono abbastanza ricchi e influenti da condizionare gli sponsor. In alcuni sport, uno su tutti naturalmente la pallacanestro, ma anche il football americano, la presenza, per esempio, ma non sono l'unica minoranza, diciamo così, etnica, anche se così, a me fa sempre un po' impressione usare questa parola, razza, etnia, e ricordo sempre le parole di Albert Einstein, che quando diceva: io, se mi chiedono di che razza sono, di che razza è una persona, rispondo sempre: siamo tutti della razza umana. In ogni caso, la parola esiste, razzismo, e sappiamo tutti benissimo a che cosa si riferisce. In America è particolarmente sentito quando si parla di afroamericani, e quindi spiega questo articolo, appunto, come i ricavi e i compensi degli atleti, che negli anni sono andati superando, raggiungendo, come sappiamo, anche livelli record, quindi per gli atleti afroamericani, questo è sicuramente un tema che li ha resi un po' più forti. Scrive l'Economist per il Financial Times, anche per darci un'idea, perché poi è sempre difficile, a meno che non si viva lì o non si sia vissuti lì, capire queste sfumature di razzismo che ci sono che attraversano la società americana. Scrive Financial Times, tradotto da Internazionale: le discriminazioni razziali nello sport statunitense non sono particolarmente sottili. Non è difficile trovare una similitudine per un sistema in cui un gruppo ristretto di anziani proprietari, miliardari e bianchi, sfruttano giovani atleti neri, se li scambiano tra loro per poi accantonarli quando non sono più utili. Nel 2006 l'opinionista William Roden scrisse un libro sull'ascesa e il declino degli atleti neri intitolato 40 Million Dollar Slaves, schiavi da 40 milioni di dollari. Ma le proteste di oggi non riguardano le dinamiche interne al mondo dello sport né il comportamento razzista di Donald Trump, sono provocate dall'aumento dei casi in cui agenti di polizia hanno sparato a cittadini neri disarmati. Quindi questa è la grande forma di razzismo che gli atleti neri cercano di combattere, forti della loro notorietà. Molto interessante, questa volta siamo sul Tageszeitung, un quotidiano tedesco, un editoriale breve sull'attuale stato dei diritti, a proposito di diritti e discriminazioni dei lavoratori in Europa. E questo è una questione che, forse, di cui forse avete sentito parlare molto per quanto riguarda le mosse della Polonia, per esempio. Si parla addirittura di dumping sociale, così come il dumping a volte viene inteso come dump letteralmente vuol dire gettare in una quantità tale che sommerge ciò su cui vengono gettate le cose, e si fa riferimento in generale a prodotti che vengono, per esempio, dall'Asia, che hanno un prezzo talmente basso che appunto sommergono i prodotti che già esistono in un mercato di quello stesso tipo. Ma esiste anche il dumping sociale, in questo caso riguarda lavoratori che, venendo da paesi dove i salari sono bassissimi, chiedono un salario che per noi in Europa è bassissimo, che per loro è molto alto. E questo è un grosso problema di cui, appunto, e che naturalmente è uno dei tanti motivi che spinge i partiti populisti, come sappiamo, in Europa. Ultimissima segnalazione, ve la faccio dal New Yorker, che ha ripreso il tema del molto controverso in Italia dei monumenti fascisti. La foto, per esempio, è quello di Palazzo Civiltà dell'Eur, tra l'altro di recente restaurato interamente da Fendi, che ne ha fatto il suo quartier generale. E questo palazzo, per esempio, risale all'epoca fascista, e alcuni continuano a pensare che forse andrebbero smantellati, o che bisognerebbe fare in modo di ricordare a tutti, di contestualizzarli per tutti. La domanda è giusto conservare le opere fatte costruire da Benito Mussolini? È un articolo apparso sul New Yorker che poi ha fatto discutere molto anche qui da noi. Ultima segnalazione per oggi, anche se avevo messo da parte tanti altri articoli. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.